Le funzionalità iniziali del nostro SDK principalmente sono riconoscimento di immagini, e tracking e detection di immagini all'interno su dispositivo mobile. Il riconoscimento di immagini avviene in cloud, noi ci basiamo principalmente sul cloud di Google, ma possiamo funzionare su AWS o qualsiasi altra tipologia di cloud esistente. E le prestazioni del riconoscimento in cloud sono estremamente elevate, parliamo di più del 94% di precision recall del riconoscimento. Sono anche prestazioni elevate in termini di tempi, perché riusciamo a riconoscere un'immagine in un database di quasi 1 milione di immagini in circa 1 secondo, poco meno di 1 secondo. Solitamente noi cerchiamo per i nostri clienti di limitare i database a 100.000, più che altro per questioni di costo, perché altrimenti i costi in cloud sono sempre elevati. E in quel caso le prestazioni sono ancora migliori, perché ovviamente in pochissimi, in circa 2 decimi di secondo, riusciamo a riconoscere un'immagine con una precisione assoluta. Abbiamo uno dei tracker migliori al mondo che funzionano su mobile, e funziona anche quando la telecamera va fuori fuoco, quando c'è molto jitter nell'immagine, e anche con marker che si possono deformare leggermente senza nessun problema. Altre tecnologie che abbiamo inserito nell'ultima versione dell'SDK sono la geolocalizzazione, quindi è possibile geolocalizzare qualsiasi contenuto e visualizzarlo in realtà aumentata geolocalizzato. E al momento, per la versione attuale dell'SDK, queste sono le caratteristiche. Le caratteristiche future nella versione futura dell'SDK sono quelle che abbiamo già sviluppato internamente, che al momento stiamo solo ingegnerizzando e testando internamente. Sono il tracking multiplo, cioè la possibilità di trackare, di inseguire e fare tracking di molti più marker contemporaneamente. Abbiamo migliorato la detection in locale sul device, adesso riusciamo a fare molti più marker in locale e con anche multiscala. E l'ultimo sviluppo, quello di cui siamo un po' più felici e contenti, è una tecnologia che noi abbiamo chiamato Picard AR Logo, che è praticamente uno dei primi sistemi di stencanografia stampabile su mobile. In pratica riusciamo ad embeddare codici binari all'interno di un'immagine, questa immagine che può essere stampata e riconosciuta dal nostro sistema con anche la decodifica del codice binario che è stato inserito nell'immagine. Questo ci permette di fare realtà aumentata personalizzata. Tu pensa a avere una stessa immagine, tipo il logo di un'azienda, in cui ogni versione stampata di questo logo avrà un codice binario diverso. Noi riusciamo a riconoscere questo codice binario diverso e quindi a visualizzare esperienze di realtà aumentata diverse o personalizzate. Soprattutto questo ci permette anche di tenere traccia e di fare un po' di una sorta di analytics di tutti i riconoscimenti, di quanto la realtà aumentata è stata visualizzata, da quali persone è stata visualizzata e così via. Questo ci permette soprattutto di trackare anche la singola stampa del singolo marker e fuori nel mondo. E questa è una tecnologia che abbiamo brevettato pochi giorni fa ed è l'ultimo grosso sviluppo che abbiamo fatto. Dal punto di vista scientifico, ovviamente poi quello che noi stiamo sviluppando e studiando in questo momento è lo SLAM, cioè la possibilità di fare realtà aumentata senza marker, ma ricostruendo la tridimensionalità del mondo che c'è attorno, cercando di riconoscerla, che però sarà disponibile probabilmente in un'ulteriore versione futura che verrà rilasciata l'anno prossimo. E altro sull'SDK, potete andare sul nostro sito developer.picard.com e scaricarlo e utilizzarlo gratuitamente, la versione trial. La versione trial permette di utilizzare un numero limitato di marker e testare sia anche, oltre al riconoscimento locale, testare anche il riconoscimento in cloud con un numero limitato di marker, completamente gratuita. Potete fare la vostra app, ovviamente non potete pubblicarla sugli store con la versione trial, per quello dovete poi ottenere una licenza della versione completa. Sul nostro sito sono presenti anche tutta una serie di tutorial che spiegano come sviluppare le app. Un'altra cosa, il nostro SDK, noi supportiamo anche Unity, quindi è possibile utilizzare il nostro SDK come plugin di Unity, che sicuramente gli addetti ai lavori conosceranno benissimo, è una sorta di motore 3D per principalmente per mobile, ma anche per desktop, noi nel nostro caso è specifico mobile, è una sorta di standard ormai nell'industria, e noi ci possiamo collegare a questo motore 3D e utilizzarlo per poi far visualizzare la realtà aumentata con la nostra tecnologia.